Radio 24 Reportage. Europa, allarme lavoro, di Sergio Nava. Alziamoci in piedi per un'Europa più forte. Buongiorno da Bruxelles, dove ci troviamo al Comitato Economico e Sociale Europeo per raccontarvi una conferenza che parla di crescita, parla di economia, parla di un'Europa che cerca con difficoltà di uscire dalla crisi. Il Comitato Economico e Sociale Europeo è un'organizzazione che raggruppa le principali parti sociali, soprattutto imprese e sindacati in Europa. Noi ci concentreremo nel corso di questo reportage in particolare sul tema dell'occupazione, occupazione anche giovanile. Cercheremo di capire come l'Europa, attraverso i suoi politici, attraverso le sue parti sociali, sta proponendo soluzioni per uscire dal problema della forte disoccupazione che riguarda soprattutto i paesi del sud, tra cui ovviamente anche l'Italia. Staffan Nilsson è il presidente del Comitato Economico e Sociale Europeo. A Radio 24 introduce così il messaggio della conferenza. Una conferenza che si svolge nel bel mezzo della peggiore crisi economica dell'Unione Europea, con quasi 25 milioni e mezzo di disoccupati nei 27 paesi, oltre 2 milioni in più nel giro di un solo anno. Vogliamo che i paesi europei riconoscano che esiste una società civile che va coinvolta nella sfida della lotta alla crisi, ci dice Nilsson. Occorrono le parti sociali. Gli Stati europei lo devono riconoscere. Sappiamo che bisogna tornare a una crescita sostenibile con misura ad hoc per creare nuovi posti di lavoro. Il mio messaggio è che abbiamo bisogno di tutti i 27 paesi membri impegnati nella lotta alla crisi. Non è una questione di separarsi andando ognuno per la propria strada o guardare solo all'eurozona. Tutti devono reagire, a partire dai paesi con la situazione migliore. È interesse di tutti, anche perché tutti soffriamo in qualche modo della crisi, ormai siamo interdipendenti, afferma Nilsson. Poche iniziative o proposte nuove, per la verità, sono emerse nel corso delle circa 9 ore di meeting. Si è trattato per lo più di uno scambio di punti di vista, esperienze e contributi, sui quali torneremo tra poco. Ma al di là della babele di lingue e proposte, la conferenza ha evidenziato un certo distacco tra l'elite brussellese e i rappresentanti delle parti sociali, soprattutto imprenditori e sindacati. Loro sì, a cercare negli interventi in sala di calare gli ambiziosi piani e le future strategie di Bruxelles all'interno di situazioni spesso drammatiche che il cittadino europeo medio si trova a vivere quotidianamente sulla propria pelle. Uno di questi è il delicato tema dell'occupazione. Radio 24 ne ha discusso con il commissario europeo Laszlo Andor, presente alla conferenza. A lui abbiamo chiesto come la Commissione intenda implementare concretamente il cosiddetto pacchetto occupazione approvato da Bruxelles solo pochi mesi fa. Al di là delle strategie, servono infatti i risultati. There are various ways to translate a policy document into reality. Ci sono vari modi di farlo, dice Andor. Per esempio, possiamo inserirne gli elementi concreti nel semestre economico, oppure possiamo, come nel caso dell'Italia, portare queste misure all'interno delle raccomandazioni specifiche per i paesi. Ma è importante anche lavorare con i centri pubblici per l'impiego, aiutandoli a sviluppare i loro sistemi e a scambiarsi le migliori esperienze. Nell'ultimo periodo abbiamo riallocato, a causa della crisi, oltre 7 miliardi nel Fondo Sociale Europeo per aiutare i giovani direttamente. Abbiamo così raggiunto oltre 500.000 di giovani in 7 paesi. Questo è un modo molto concreto, ci dice, di cambiare le cose, ma abbiamo anche altre proposte, per esempio sviluppare ulteriormente la rete europea di mobilità Eures. In Germania, Danimarca e altri paesi del nord ci sono posti di lavoro disponibili. Se si conoscono queste opportunità, si aumentano le proprie possibilità di trovare impiego. Infine prevediamo di adottare a dicembre un piano per le garanzie ai giovani che assicurerà ai disoccupati un'offerta da parte del proprio paese per un'esperienza di studio, tirocinio o apprendimento. They would receive an offer from their country for further studies, training or an apprenticeship. Max Hübe della Digi Occupazione della Commissione Europea anticipa a Radio 24 le linee guida del nuovo pacchetto per i giovani che Bruxelles presenterà tra 2 mesi. There will be two policy initiatives. Ci saranno 2 iniziative, la prima sulle garanzie per i giovani, la seconda invece nell'ambito dei tirocini. Vogliamo maggiore qualità per gli stage in Europa. In questo caso si tratta di una consultazione con le parti sociali. Queste due proposte saranno accompagnate da una comunicazione ombrello che farà il punto sulla situazione dei giovani in Europa oggi, spiegherà come i fondi europei possano aiutare gli under 30 e indicherà iniziative ad hoc nell'area di apprendistato e mobilità. Alla conferenza del Comitato Economico e Sociale incontriamo anche il ministro per gli affari europei Enzo Moavero Milanesi, reduce da un'intensa e spigolosa discussione con i colleghi comunitari sulle prossime prospettive di bilancio. A lui chiediamo se i paesi europei siano pronti ad accettare o meno la sfida lanciata dalle parti sociali affinché vengano moltiplicate le azioni per uscire dalla crisi e restituire occupazione all'Europa. Più che di sfida parlerei dello stimolo delle parti sociali, che va accettato sempre. Non è tanto la questione della crescita che ci ha colto di sorpresa, quanto la grande crisi economica e finanziaria che ha colto tutti di sorpresa, per la sua natura improvvisa e per la sua durata e per la sua gravità. Noi sono svariati anni che l'intero mondo è afflitto da questa crisi che rappresenta il più grave evento dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo la crisi del 1929 che tutti abbiamo studiato. Ecco, di fronte a questo evento imprevedibile, la risposta europea è stata prima di tutto quella di accompagnare l'azione degli Stati nella messa in sicurezza sia di quelle parti dell'apparato creditizio e finanziario che erano entrate in crisi che successivamente degli stessi bilanci degli Stati. Noi abbiamo posto, e lì risaliamo ancora all'inizio di quest'anno, forse fra i primi governi nell'ambito dell'Unione Europea, proprio la questione della crescita e la questione di una crescita che tenesse conto della potenzialità del mercato interno europeo come volano di questa stessa crescita. Noi pensiamo a una crescita economica, certamente, ma soprattutto a una crescita che crei opportunità di lavoro, posti di lavoro, che sia una crescita sostenibile e che possa consentire di accompagnare la ripresa dopo la crisi e in questa fase l'uscita dalla crisi stessa. Ma a Bruxelles il dibattito è stato in primis tra le stesse parti sociali. A margine dei lavori, Radio 24 ha intercettato due rappresentanti di imprese e sindacati mettendoli a confronto, scoprendo anche come su alcuni punti le differenze tendano ad accorciarsi. Siamo qui con Francesca Ungaro, portavoce dell'Unione Europea delle piccole e medie imprese, la UEAPME, e con Luca Visentini, che è segretario confederale della Confederazione dei Sindacati ETUC. Buongiorno innanzitutto. Partiamo con Francesca Ungaro. Qual è stata un po' la vostra impressione? Oggi siamo qui a Bruxelles al Comitato Economico Sociale, si parla di occupazione, si parla di lavoro. Partiamo però con l'impressione personale di quanto secondo voi è stato fatto o non fatto dall'Europa in questi anni. Innanzitutto direi che nel momento in cui si riflette su cosa fa l'Europa per l'imprenditoria bisognerebbe concentrarsi sulla piccola e media impresa, perché il tema della giornata era come dare occupazione ai giovani. Non dimentichiamoci che l'85% delle job opportunities in Europa sono create alle piccole e medie imprese, quindi oggi avrei voluto si fosse dato più spazio a questo tema, cioè a cosa fare perché le piccole e medie imprese possano crescere in termini di occupazione a dipendenza, ma anche crescere come nuovi giovani imprenditori. Luca Visentini? Prima della crisi l'Europa ha saputo creare un sacco di posti di lavoro, ma prevalentemente sottopagati e sottoqualificati. Dopo la crisi gli strumenti attraverso i quali l'Europa aveva saputo creare questi posti di lavoro si sono dimostrati assolutamente inadeguati, evidentemente, perché oggi il problema che abbiamo è che i posti di lavoro non ci sono e non riusciamo a recuperare i milioni di disoccupati che si sono determinati dopo la crisi. Ora, la Commissione sta riproponendo sempre gli stessi strumenti, cioè giustamente anche il fatto che bisogna migliorare le proprie competenze, la formazione collegata al mondo del lavoro, la possibilità di essere mobili all'interno del mercato del lavoro europeo, questo concetto di flessicurezza che dovrebbe combinare la flessibilità della prestazione lavorativa con l'esistenza di un welfare di sostegno che possa consentire appunto di mantenere anche una vita decente. La verità è che questi tre strumenti purtroppo da quando la crisi esplosa hanno dimostrato di essere assolutamente non all'altezza della situazione. Allora quello che noi stiamo cercando di dire alla Commissione è, primo, cerchiamo di riqualificarli questi strumenti per vedere se possiamo farli essere più efficaci nei confronti dei lavoratori e delle imprese. Secondo, senza una diversa politica economica i posti di lavoro non li creeremo mai e quindi non c'è nessuna possibilità di uscire dalla crisi. Questi strumenti rischiano di essere dei pannicelli caldi se non vengono inseriti in un contesto diverso. Interessante notare come sia imprese che sindacati sono critici, da punti di vista magari anche diversi, però verso le politiche messe in atto finora dall'Europa. Però c'è secondo voi una divisione alla fine anche nel problema della disoccupazione molto forte tra l'Europa del Sud, a cui apparteniamo, e l'Europa del Nord? Francesca Ungaro. Sì, diciamo che quello che viviamo nell'Europa del Sud c'è una dicotomia fra la richiesta, la tipologia di manodopera che viene richiesta, quindi i posti vacanti, e la tipologia di qualifiche che hanno le persone che cercano lavoro. Per cui si crea questa dicotomia assurda, che è effettivamente un paradosso, tra aziende che cercano una determinata tipologia di persone e persone che non sanno fare quel lavoro. Mi è parso di capire che questa dicotomia non è così forte nel Nord Europa. Annuisce Luca Visentini. Sì, le differenze sono abissali. Infatti quando parliamo di politiche europee ce la prendiamo con la Commissione, in realtà ce la stiamo prendendo con i Paesi membri, perché poi tutte le decisioni che sono state prese negli ultimi vertici riguardo alla governance economica vengono dai Paesi, la Commissione è solo un esecutore. Le differenze sono abissali e le ragioni sono fondamentalmente due. La prima è che nei Paesi nordici e in Germania la crisi è molto meno pesante che da noi e quindi il tasso di disoccupazione è molto più basso. In secondo luogo, in quei paesi, soprattutto nei paesi nordici, perché in Germania il precariato è molto elevato, hanno saputo coniugare un'alta produttività e un'alta crescita delle imprese con degli ottimi sistemi di qualificazione professionale, una capacità significativa di coniugare la flessibilità con la sicurezza sociale, un sistema sociale di protezione elevatissimo che noi ci sogniamo in Italia e che costa però esattamente come il nostro, e quindi è poi una grande coesione territoriale tra le comunità che è determinante sia nel sostenere le imprese che nel dare la possibilità ai lavoratori anche di spostarsi tra diversi posti di lavoro, mantenendo però sempre un livello di protezione omogeneo. Una crescita inclusiva, innovazione da accompagnare a una crescita sostenibile, un mercato unico pienamente funzionante con la giusta erogazione di credito alle PMI, nuove forme di educazione e tirocinio per nuove tipologie di lavoro, diritti sociali, misure per i giovani, un salario minimo di cittadinanza. Questo, alla fine della giornata, il mix di ingredienti proposti per uscire dalla crisi. Da Bruxelles è tutto. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.